voce destinica fine alla gloria nutre le sue cadute, si discute con le sue mute. La mia testa è una macchina forgiata per combattere. La mia testa è un labirinto al quale sconsigliate entrarne. La mia testa ha un bioflusso elettrochimico agghiacciante. La mia testa è un macello da gestire, un gran bordello. Jack, innovazioni in quanto artisti rap, yes. Io porto il nuovo man, tu solo fischi Dan. No, no, non mi ascolto dance, non ballo nel tuo club. No, no, non mi spiego a rapportarmi con ste zoccole. Avessi un modo per cambiare ciò che sono, non stare qui buono a farci sulla ruggine. Avessi un suono che ricorda un poco quello dei club logo, non starei qui fuori al freddo per svoltare il cash. Non mi lodo, non mi specchio, non ti imploro per portarti a letto il giorno dopo, un'altra che mi scopo. Io non gioco, non diverto, non so buona a dirti il buono. Questo pezzo lo riascolto dopo. Non mi prendere per un tipo scontroso, ma è che a furia di fregare ho il cazzo esploso. Non te vedo proprio. Puoi portare il tuo ragazzo a cena, ma non credo dopo mi ringrazi a modo. Peso un muro con un chiodo. La mia testa è una macchina forgiata per combattere. La mia testa è un labirinto al quale sconsigliato entrarne. La mia testa ha un bioflusso elettrochimico agghiacciante. La mia testa è un macello da gestire, un gran bordello. La mia testa è una via, tu testa la via, mangi solo la scia della mia canna d'erba. Senti questa ebbrezza, fai una boccata immensa e pensa quanto cazzo costa averci soldi in testa. Tutto questo non mi rappresenta, avessi un conto in banca me ne andrei a Venezia su una barca guardandomi il mondo che affonda, attacca per tacche ed è tutto quello che mi fa influenza, che in fondo un po' mi influenza. Tra scuola e lavoro la vita mi stressa. Oh cane bavo, sono una donna depressa. Tutta la gente che ascolta i miei pezzi si penta, mettete camicia e giacchetta, prendete la fede, speranze e tragedie, andatevene tutti a messa. Questa gente non sa che la mia testa è una bomba, bomba, bomba. Orologeria che non si innesca. Che ti importa dello stile quando conta averci testa? Quando conta averci testa? Quando conta averci testa? Solo averci testa. Che ti importa delle fighe quando ne è una gigantesca? Così tanto che se viene posso metterci la... La mia testa è una macchina forgiata per combattere. La mia testa è un labirinto al quale sconsigliato entrarne. La mia testa ha un bioflusso elettrochimico agghiacciante. La mia testa è un macello da gestire, un gran bordello. Sveglio, già cosciente che non c'è un domani. Dal letto allungo il braccio, afferro la bottiglia di Campari. Sono il peggio dei cani, il frutto di notti insonni passate a ricomporre i mosaici. Adesso pensieri malsani su quello che vedo, quello che sento, quello in cui credo davvero. Come il mio dubbio che interi marziani vestissero i panni del clero. Sono un tipo sincero, molto più schietto di quanti si credono. Quello che non dico lo metto per scritto e lo recito. È tratto del vero non recito. Sono un po' poetico, un po' filosofico, con la fissa per la grana e per il sintetico. Stona la 47esima barra e la folla mi guarda come un eretico. Fumo fino a quando si fa tramonte, quando si fa notte giro come un vagabondo. Con uno sguardo cotto di colore rosso, sono mezzo vivo come mezzo morto. Dentro la mia testa è un altro mondo, dove si fa sesso libera anche senza condom, dove l'ultimo cretino è il primo a fare il botte, dove posso andare lirica anche il peggio stronzo. La mia testa è una macchina forgiata per combattere. La mia testa è un labirinto al quale sconsigliato entrarne. La mia